E il mondo è il gioco dei ricchi. No, scusami, non era un gioco per tutti. Oh no, sparmi, ma la sostanza non cambierà mai. Bacio il buio e sto deviando, poi bacio il cielo e quasi ci credo. Ho luci dentro e piume fuori, chi vola prima o poi saremo anche noi. Sono io, sei tu. Scusami, questo sistema è una gabbia, mi fa rabbia perché aumenta le differenze tra chi ha potere e chi non ha proprio niente. Sparami, sparami, io sarò sempre meno quello che pensi. Una nuova realtà sommersa, colpo su colpo risponderà. Questo sistema è una gabbia. Su colpo io risponderò. Apriti e scegli i semi più buoni e poi donali ai tuoi nemici più veri. E poi passerà quest'anno nero, come son passati gli altri. Se vogliamo cadrà ogni muro, anche il più duro tra di noi. Sparami, sparami, io sarò sempre meno. Lo farà, colpo su colpo io risponderò. Sparami, sparami, lo farò. Hey.